Il danno è fatto e indietro non si torna più. Ora che il quadro è dipinto e il chiodo sta su, punto a capo per colpa di Eva, un peccato quell'ultima cena. In principio fu amore, ma adesso che cos'è? Io sai, per colpa di Eva più pace non ho, e sguscio qui tra i ricordi di lune falò, fotogrammi di un mondo lontano, un amore tenuto per mano. In quel mondo l'essenza di tutto eri tu. Eva, accidenti a te, questa vita strana mi riporta a te. Brava, tu a dimenticare e a ridisegnare traiettorie nuove. Amaro il pensiero che porta a voltarti le spalle, congelo le voglie giù in fondo per celarle a te. Guardo l'amore che è stato un incubo acceso, scendio diva dal pulpito che ho creato per te. Ora che il mandorlo è in fiore, il mio fiore non c'è. Qui nel giardino incantato il mio posto qual è? In rovina i miei giorni migliori, sono morsi i tuoi baci di ieri, indelebile il tempo speso insieme a te. Congelo le voglie giù in fondo per celarle a te. Guardo l'amore che è stato un incubo acceso, scendio diva dal pulpito che ho creato per te. Accidenti a te, questa vita sbanda e mi